fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. 2:23 del mattino, sabato 4 agosto 2018, di nuovo un saluto da Master Nick, Risto Radio Convento, la nostra web radio qui nel nostro locale, e diamo il benvenuto a un altro sposo, anche se diciamo che età bassa per essere sposo, perché è uno dei bambini più attraenti che io abbia visto e anche più desiderati, tutte lo volevano coccolare questa tutte sera. Tutte le donne mi vogliono. Donne e uomini, no, indipendenti. Solo donne. Ah, un bambino. Stasera mi vogliono anche gli uomini, stasera solo le donne. È un bambino che sa già cosa vuole dalla vita, ha già ben chiaro come deve essere la vita. E questo è tutto vero, nel senso che è veramente vestito con la cuffietta da bambino, col ciuccio e... Vabbè, col pannolino, non volevo dirlo, ma lo dico. Stasera mi hanno già fregato il mio ciuccio. No. Sì. E non fregate il ciuccio ai bambini. C'è qualche donna che lo sta ciucciando sicuramente. Ma perché sai che il corso della mamma, no? E sì. Sai che le donne no, sono tutte. No, desideravano il mio e mi hanno fregato il mio. Ah, ok. Ma per dire, ripeto, è proprio. Ho detto prendo quello. Ma perché hanno sempre le voglia di mamma, no? E non le la togli mai, non le la togli mai. Quindi salutiamo questo bel bambino cresciuto. Come ti chiami? Enrico. Enrico da dove? Padova. Padova, benissimo. Cosa festeggi qui con noi? Raccontaci un po'. Festeggio che il 29 settembre mi sposo. Con questo entusiasmo? No. Sì. No. C'è più entusiasmo, adesso sono un po' stanco magari dalla giornata, dalla serata. Dalla mattina che festeggiamo. Ci sta. Convinto, è un bel locale, bel divertimento, bella gente. E il 29 settembre mi sposo, lei mi ha chiesto, ho detto... Ah, lei, cioè, ha ribaltato completamente. Tra l'altro, perdonami, perché diciamo che la tua futura moglie ha, anche in questo caso mi confermi... Mi ha conquistato. A parte che quanto ha conquistato, però veramente ha dentro il DNA maschile, perché ti ha chiesto di sposarti. C'è un negozio di moto, mi dicevi. Sì, mi ha detto lavori con me... Io sono andato lì a lavorare, a fare il mantenuto, cosa vuoi? Ma è veramente il sogno di ogni uomo, cioè una donna appassionata di motori? Sì. Ma lei ha sempre avuto questa passione? Sì, da quando è uscita da scuola si è inserita nel mondo dei motori e adesso... Ma vende proprio moto? Vende moto, ricambi e tutto. Non corre, però vende. Non corre, ma vende. Dove? A San Martino di Lupari. Ah, KTM. Provincia di Verona, giusto? Padova. Ah, Padova, perdonami. Siamo posizionario KTM ufficiale. Però, e è suo il negozio? Sì. Complimenti, veramente complimenti. Io suo. Sì, bene, senso, comunque complimenti, veramente. A te piacciono i motori? Sì, o piace, ti sei, sì. Sei salito in sella, come diciamo? In sella, accelero e via. Bene, bravi. Sì, complimenti per questa bella passione. Campionato e tutto. Ah, tu guidi anche, sì. Quindi. Dove? All'europeo. Ah, cioè professionista. Il KTM, faccio il trofeo e tutto. Boh, però è vintucchiato qualche cazzo, però vabbè, intanto mi diverto. Vabbè, però ci provi, nel senso che si corre sempre per vincere. Beh, però si corre sempre per vincere, poi quello che ci arriva. Provo, però arrivo. Quello che arriva si prende. La classifica, arrivo primo. Ah, ok, tu dal fondo sei sempre primo. Bravo, vabbè, ma è un buon modo di vedere la competizione. Sì, mi diverto in compagnia. È giusto, amici. È giusto, assolutamente sì. A proposito di amici, ne hai due qui con sì, te, chi sono? In pista. Beh, intanto cominciamo da loro due che ti hanno accompagnato. Il mio compare e lui è cognato. Ok, come si chiamano? Alessandro e Mirko. Ok, e poi altri fuori, lui che sta cercando di distrarci da 25 minuti. Luca sta distrando, gli altri sono in pista, siamo una ventina di amici. Però un bel gruppo numeroso. Anche qualcuno che corre con te magari? No, solo amici al di fuori di questa passione. Patata dietetica. Ok, patata dietetica mi piace. Coltivatori, quindi tutti coltivatori. Bravi. Allora, c'è qualcosa che vuoi dire, Enrico? Sì, un saluto al convento, a tutta la gente. Bellissimo locale, divertente. E te sei numero uno. Va bene, ti ringrazio del complimento. Ma soprattutto grazie per aver passato con noi questa bella serata. Speriamo vi siate divertiti e speriamo di essere stati all'altezza delle vostre aspettative. E soprattutto in bocca al lupo per il tuo futuro, anche se già lo vedo, tornando alla metafora di prima, una strada bella dritta, ben delineata, ben definita. E si vede che ti diverti in quello che fai e continua così, non ti fermare, anche perché se ti fermi tu questa ai 150 all'ora ti sorpassa al volo, quindi devi tenere le testa. Grazie mille ancora Enrico, grazie ai suoi amici. Vuoi dire qualcosa? No, visto che si è lanciato. No, ok, benissimo, benissimo. Grazie ancora allora, buona festa, buon divertimento. Alla prossima, ciao. Bravo.